Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Sono Franco Cesari ed insieme a Francesca Romano ed Elisa Pasquini faccio parte dell'associazione Energicamente. Nello specifico mi occupo di formazione e ricerca per il recupero psicofisico della persona. Sono un counselor cognitivo-relazionale e maestro di Reiki nei diversi stili giapponesi ed occidentali. Nella puntata di oggi parleremo di materie di vibrazioni per introdurre il tema più ampio del protocollo di trattamento energetico-vibrazionale che abbiamo messo a punto all'interno dell'associazione per favorire il rapido ed efficace recupero della vitalità e dell'equilibrio psicofisico dell'individuo, tema che sarà poi oggetto di approfondimenti e di trattazione specifica nelle puntate successive. Il termine materia, per cominciare, deriva dall'equivalente latino materia, ma può essere ricondotto direttamente anche al termine sempre latino mater, che significa madre. L'etimologia del termine lascia quindi intuire come la materia possa essere considerata il fondamento costituente di tutti i corpi e di tutte le cose. La sostanza prima di cui tutte le altre sostanze sono formate, che a loro volta danno forma agli oggetti e agli organismi viventi. Una sedia, un tavolo, un albero, un pesce, il vetro, un cane, un gatto, un essere umano. In fisica classica, con il termine materia, si indica generalmente qualsiasi cosa che abbia massa e che occupi spazio. Oppure, alternativamente, la sostanza di cui gli oggetti fisici sono composti, escludendo quindi l'energia, che è dovuta invece al contributo dei campi di forza. Quindi, come ci hanno insegnato quando studiavamo scienze alle scuole medie, ogni cosa vivente, un uomo, un cane, un pesce, un virus, via dicendo, o inanimata, come può essere la sedia, la televisione, l'armadio, il metallo, la casa stessa, è composta di materia, perché ha una certa massa e occupa un certo spazio. Tuttavia, facendo degli esperimenti nel campo dell'infinitamente piccolo della materia, sia vivente che inanimata, è stato scoperto che la materia è fatta di atomi, che a sua volta ogni atomo è formato da un nucleo, costituito da protoni, che sono le particelle positive, e neutroni, che sono particelle prive di carica, al cui intorno ruotano senza seguire un'orbita definitiva e definita una certa distanza delle particelle che si chiamano elettroni, che sono particelle negative nello stesso numero dei protoni. Questo più o meno lo sappiamo tutti, visto che abbiamo sempre osservato, no? Immagini degli atomi dove al centro c'era questo nucleo e attorno al nucleo orbitavano gli elettroni. Tuttavia, pur se abbiamo presente come è fatto un atomo, se facciamo mente locale avremo delle sorprese, no? Se ingrandissimo il nucleo atomico così piccolo fino a fargli raggiungere la dimensione di una mela, di una palla da tennis per esempio, vedremmo che a questo ingrandimento gli elettroni ruoterebbero attorno al nucleo a una distanza pari circa a 1 chilometro. Quindi immaginate un elettrone che ruota attorno a questo nucleo a 1 chilometro più in alto rispetto alla nostra testa e 1 chilometro più profondo nella Terra. E questo cosa implica? Implica che la maggior parte dello spazio all'interno di un atomo in realtà sia costituito da vuoto. C'è uno spazio vuoto tra il nucleo e l'elettrone. Ma allora la domanda nasce spontanea, direbbe qualcuno molto più famoso di me: se la materia è fatta di atomi e gli atomi sono per la maggior parte composti da spazio vuoto, cos'è che la rende solida? Cos'è che rende solida una sedia, per esempio, su cui siamo seduti, impedendoci di cadere per terra? La soluzione fu scoperta da Max Planck. Questa soluzione nel 1918 valse a Max Planck il premio Nobel per la fisica. Questo padre della fisica quantistica, Max Planck, afferma che la materia non esiste. la materia non esiste, è tutto in vibrazione. Nel 1944, pochi anni prima di morire, scrisse: avendo consacrato tutta la mia vita alla scienza più razionale possibile, lo studio della materia, posso dirvi almeno questo a proposito delle mie ricerche sull'atomo. La materia come tale non esiste. Tutta la materia non esiste che in virtù di una forza che fa vibrare le particelle e mantiene questo minuscolo sistema solare dell'atomo. Possiamo supporre al di sotto di questa forza l'esistenza di uno spirito intelligente e cosciente. Questo spirito è la ragione stessa di ogni materia. Questo disse Max Planck in un discorso che tenne a Firenze nel 1944, intitolato La natura della materia, The Essence, Nature, Culture of Matter, e che troverete anche in internet, googolando in giro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, in parole semplici, ogni cosa che definiamo composta da materia, come appunto, abbiamo fatto l'esempio prima, una sedia o la stessa mela, la palla da tennis, no? Che abbiamo parlato, o lo stesso essere umano, è composto, nel suo infinitamente piccolo, da atomi, a loro volta composti da 99%, 99,99%, quindi quasi la totalità, da spazio vuoto. Questo è detto dalla scienza ed è dimostrato scientificamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che le cose sono fatte da spazio vuoto e da atomi, che per rendere solida una determinata struttura, quindi le particelle vibrano a una determinata frequenza, e qui diventa interessante per noi. La frequenza a cui vibra una sedia, per esempio, serve proprio a renderla solida, affinché chi ci si siede sopra possa non cadere per terra. Come possiamo verificare questo assunto? Come possiamo verificare che tutto è vibrazione? Avete mai sentito parlare delle cantanti liriche che riescono, oppure l'avete visto magari qualche volta, cantanti liriche che riescono a rompere i bicchieri con la sola intonazione della voce? Cantano, fanno l'acuto e un bicchiere di cristallo lì vicino può spaccarsi. La spiegazione è molto semplice. L'aria che vibra a una certa frequenza entra in risonanza con il cristallo e quindi fa esplodere il bicchiere, come se desse un colpo di martello virtuale. Il principio che agisce in questo caso è quello detto della risonanza. Cioè, riuscendo a creare una frequenza uguale a quella della struttura del bicchiere, dato che le frequenze uguali tendono ad annullarsi, si riesce a rompere il bicchiere, perché questo entra in risonanza e quindi riceve una sorta di martellata, per l'appunto. L'enciclopedia online, Wikipedia, dice che la risonanza è una condizione fisica che si verifica quando un sistema oscillante, forzato, viene sottoposto a sollecitazione periodica di frequenza pari all'oscillazione propria del sistema stesso. Che, tradotto in esempio, possiamo identificare, che so, con i diapason, no? I diapason che servono ad accordare gli strumenti musicali. I diapason hanno la caratteristica di vibrare ad una ed una sola specifica frequenza, che serve appunto per accordare gli strumenti musicali. Di solito si accordano in La, il La centrale, così detto, che è una frequenza di 440 Hz. Una delle proprietà visibili del diapason è che, oltre ad emettere una precisa frequenza di vibrazione, riescono anche ad assorbirla questa frequenza e entrare quindi in risonanza con un diapason che è la stessa identica frequenza vibrazionale. Cioè, se metto, in parole povere, due diapason uguali da 440 Hz, due diapason accordati in La centrale, ne colpisco uno in modo che questo inizi a risuonare, ad emettere la sua frequenza in La, l'altro che si trova vicino, se lo metto leggerissimamente a contatto, ma anche se avvicino semplicemente il diapason, comincerà a vibrare a sua volta, entra in risonanza. Se fermo la vibrazione del primo, la cosa simpatica del primo diapason, quello di partenza, il secondo continuerà a vibrare perché ormai è partito in risonanza e aveva attivato le sue vibrazioni. È tutto per oggi, il resto ai prossimi appuntamenti. Nell'augurarvi a questo punto una vita felice nella consapevolezza della propria energia e dandovi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo i nostri riferimenti. Il sito web è all'indirizzo www.energica-mente.it. Potete scriverci all'indirizzo email info@energica-mente.it e telefonarci ai numeri 340 2345 340 Francesca oppure 339 38 60 1213 che è quello di Elisa o ancora al 329 89 89 669 che è quello mio di Franco. Vi ricordo inoltre la nostra pagina Facebook Energica-Mente competenze per il benessere. Ci sentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio Big World. Ringrazio come sempre Davide e Giorgio per l'ottima opportunità che ci hanno dato e vi saluto tutti con un Namaste Gassho. A risentirci.